attentato, gli me voglio presentare e mostrare le mie valie all'ispettore al mandamas. Nicolaus si è firmata del cordon policial.